L'andamento dei mercati sempre up and down like a yo-yo, giddy up go go. Like yo-yo, life is just a giddy up go go. Questa tendenza più al down che all'up ricorda un po' l'andamento dei rapporti tra cane e padrone nella contrastata storia d'amore tra K e il bassottino Tito. Ah, non me lo ricordare, Drago, sembra che ormai questa sia la normalità. Di Tito che alterna il suo floppa floppa, geure geure, geure geure, floppa floppa. Sì. Io voglio un Tito floppa floppa e basta. Vabbè, ma Kappa, immagina un notaio milanese che sta godendosi il suo sigaro e il suo caffè e sente il tuo discorso. Cosa potrà mai capire? Sì, alle 5, insomma. Vero, un po' gli atti ormai li ha già fatti. Li ha già fatti, quelli si gode il guadagno della giornata. 900 euro. Esatto, però è facilissimo, senti, geure, geure, signor notaio. Tito è un cane, è il mio cane. Come tale mi ama tantissimo. Meglio, mi amava tantissimo, perché a causa di un'aggressione da parte di un cagnone assassino, che tra l'altro ieri ho rivisto in giro senza museruola, aggressione peraltro alla quale io mi sono opposto con tutto il mio corpo, mi sono ferito, eccetera. Dopo questa aggressione Tito non mi ama più, almeno povero, non mi ama più come una povero volta. Povero K, questa a volte mi ama e mi lecca e quindi fa floppa floppa. Ok, va bene. Floppa. Ma poi all'improvviso, come se un demone si impossessasse di lui, comincia a ringhiare, insomma, a fare geure geure. Ecco, quindi sono due personalità distinte nello stesso corpicino. Ecco, signor notaio, a questo punto Tito mi ha dedicato una canzone. A chi, Tito? Ma sì, sentiamola. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre, this is the dog singing, stai già pensando a un altro cane. Mi sento già sperduto e la mia zampa, dove tu prima brillavi, è diventata un geure geure, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal geure geure un floppa floppa nascerà. Vada vada, ah, davvero commovente. Ma che bella voce che ha Tito. Hai sentito? Sì, canta un po'. Un po' così. Notevole, che bravo. A chi assomiglia secondo te come cantante? Forse ha preso un po' dal papà, cosa dici? Charles Aznavour.